Quelli che hanno la stessa mia età, io li vedo due a due passare. Quelli che hanno la stessa mia età hanno tutti qualcuno da amare. E la mano e la mano se ne va piano piano, se ne va per le strade a parlare dell'amore. Solo io devo andare. Sola, sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. Tutti i giorni e le notti sono uguali per me. Tutti pieni stare da soli così. Quelli che hanno la stessa mia età fanno insieme progetti d'amore. Quelli che hanno la stessa mia età hanno negli occhi la felicità. E la mano se ne va piano piano, se ne va per le strade a parlare dell'amore. Solo io devo andare, sola sola, senza amore, senza chi mi può dare un momento d'amore. Come i ragazzi che hanno la mia età potrò anch'io conoscere l'amore. Come i ragazzi che hanno la mia età avrò anch'io qualcuno per me. Con la mano e la mano per andare piano piano, per andare per le strade a parlare dell'amore. Io l'aspetto per restare insieme, solo noi a sognare una vita.